Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Questa mattina voglio iniziare la settimana con un argomento che i miei ascoltatori più affezionati sanno quanto mi sia caro. La possibilità di uscita dal mondo sin dalla fanciullezza, ma che si protrae anche per l'età adulta e anche per l'età matura, attraverso un mondo immersivo, attraverso la possibilità di giocare con la macchina, attraverso l'immaginario che si scatena nel seguire personaggi, mondi, fantasie, avventure alle quali si accede attraverso una tastiera o attraverso una console di gioco. Questa mattina riprendo il tema dei videogiochi, sapete, a me è molto caro e molto vicino. Io ho praticamente allevato dei figli videogiocando con loro e ancora mantengo dei labili contatti con un figlio adolescente, perché parliamo assieme delle avventure con i videogiochi, li andiamo a comprare assieme e insieme commentiamo quelle che saranno le prossime uscite. Assieme qualche volta, ancora quando mi consulta, cerchiamo di uscire da dei meccanismi di gioco molto difficili, molto astrusi. Ho visto che negli anni mio figlio quindicenne ha acquisito naturalmente una manualità, un'immediatezza, una velocità di gioco che fa impallidire le mie sinapsi avvizzite. Però allo stesso tempo io ancora mantengo una sorta di verginità di scelta rispetto alla sua mente già organizzata, appunto, secondo i meccanismi, i motori che fanno girare i videogiochi, che ancora mi permette di esercitare in qualche maniera, seppur debole, il fatto che io abbia un'esperienza di vita rispetto alla sua velocità e capacità di essere entrato in maniera totale il meccanismo del videogioco. Trovo che giocare ai videogiochi non sia molto utile. Piazzarsi ore ed ore davanti ad uno schermo, con in mano un joystick, a premere pulsanti su pulsanti, per interagire in un mondo virtuale nel quale non sei te stesso. Videogiochi dove rubi automobili, simuli guerre realmente accadute e ammazzi persone, per puro gioco. Ci sono ragazzi coscienti che tutto ciò è solo un gioco. Questo naturalmente è la solita premessa, il solito pippone dei tristanzuoli muralisti perbenisti, livorosi, caciottosi, figalegnosi, che vedono nel videogioco tutto il mondo dell'abiezione, tutto ciò che allontana la concretezza, la realtà. Stare ore e ore con un joystick in mano, beh, ore e ore è sbagliato starci in qualunque attività creerebbe alienazione. A giocare in dei mondi virtuali, questo termine virtuale è un termine così inflazionato, così usato a sproposito, non ha nulla di virtuale. Virtuale, il videogioco. Il videogioco è la contemporanea maniera di entrare in un'avventura, entrare in un mondo fantastico, entrare in un mondo dell'immaginario. Lo stesso tipo di pregiudizio c'era verso i romanzi di avventura in epoche passate, poi verso i fumetti, poi verso il cinema, verso la televisione, verso tutti i supporti dell'immaginario. Oggi il videogioco è un supporto dell'immaginario che richiede qualche controllo da parte degli adulti nella fase della formazione, ma una volta che il ragazzo è cresciuto, una volta che ha preso coscienza, può tranquillamente videogiocare e tranquillamente fare naturalmente del suo tempo ciò che meglio crede. Esistono passatempi ben più perniciosi. Quindi il tema è questo: 800240024. Questa mattina parleremo del videogioco, del vostro contatto, la vostra realtà, del vostro rapporto con il videogiocare. Io ho messo 10 minuti fa su Facebook l'annuncio di questo argomento e già ho decine e decine di persone grandi, adulte, in questo momento stanno lavorando, in questo momento stanno svolgendo le loro professioni o sono prese i loro impegni familiari, personali, lavorativi, esistenziali, eppure hanno tranquillamente la possibilità di avere questa maniera di uscire dal quotidiano. Le uscite dal quotidiano non sono perniciose quando uno ha la facoltà, la capacità e gli strumenti culturali per avere anche il biglietto di ritorno. Io sono genitore appassionato di computer e di videogiochi, ma purtroppo ho anche un figlio drogato di videogiochi. Con tantissima fatica, sudore, sangue e lacrime sono riuscito a disintossicarlo, ma dopo 2, quasi 3 anni di duro lavoro, dove pensavo che ormai fosse perduto. L'idea che un architetto possa essere cresciuto a videogiochi mi fa rabbrividire. Mi auguro che gli architetti non crescano a videogiochi. Io vedo che i bambini perdono sempre di più la sensorialità, se non per quanto riguarda gli aspetti visivi e in parte uditivi. Aumentano la percezione sul fronte della comunicazione che può arrivare dal videogioco, dai linguaggi del videogioco, ma perdono la capacità di sentire gli odori, di gustare i sapori, di percepire la realtà per quella che essa è. E quindi questa perdita di fascino li condanna e, a mio giudizio, condanna l'umanità. Questo naturalmente è il versante catastrofista nei confronti del videogioco, quelli che li vedono come un limite, come un'attività negativa. Io dichiaro subito il mio pensiero, ma è già logico che sia questo, perché chi mi ascolta lo conosce bene. Sono convinto che esista una maniera per affrontare, per elaborare, per conoscere, per usare al meglio anche questo tipo di attività. Noi abbiamo, sia per gli spazi abitativi, sia per l'organizzazione della nostra giornata, un gran tempo a disposizione per coltivare il nostro immaginario. Possiamo coltivarlo attraverso i libri, buone letture, non ho assolutamente voglia di demonizzare questa possibilità di uscita dal mondo, ma è appunto un'uscita dal mondo come un'uscita dal mondo probabilmente più immediata, più immersiva, più fortemente legata alle nostre sensazioni, quella del videogioco. Il videogioco oggi è un'attività che innanzitutto investe un gran numero di professionalità, crea un grosso indotto, trascina un numero enorme di persone, non soltanto degli adulti, non soltanto degli spostati, non soltanto delle persone con una percezione patologica della realtà. Quindi vale la pena di affrontare questo tema. Quelli che avete sentito sono una parte dei nostri ascoltatori, ma esiste anche un'altra parte con opinioni del tutto diverse. 800240024, cominciate a chiamare. Io ho due figli, uno di 5 e uno di 9 anni. Quest'anno a dicembre ho ceduto e ho acquistato una console. Il videogioco consente ai miei figli di potermi dire spesso e volentieri, purtroppo, papà, ieri sera ti ho battuto. Non bisogna esagerare con la contrasto contro i videogiochi e contro le cose moderne. Ricordiamoci che nei secoli scorsi i bambini non vedevano videogiochi, ma guardavano le pubbliche impiccagioni delle persone che erano andate contro certe cose. Penso che questo sia più immorale. Non sono io che devo dire cosa sia più morale o meno morale, cosa sia etero, se sia giusto, cosa sia sbagliato. A me piace osservare, mi piace raccogliere opinioni anche a contrasto, metterle a confronto, cercare di capire qual è il livello di approfondimento e di percezione rispetto a un fenomeno che ha un pubblico medio di esseri umani come quelli che sono i miei ascoltatori. 800240024, Ernesto, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno. Allora, due anni fa mio figlio, età 10 anni, ha acquistato su eBay un videogioco, di quelli che anche possiamo trovare anche in Italia. C'era la cosa aperta, la sessione aperta di mia moglie su eBay, lui ha segnalato questo gioco perché gli piaceva. Vabbè, l'abbiamo controllato, ordiniamo questo gioco. Questo gioco in poche parole consiste in un nero americano, uno dei ghetti in fuga, ferma le automobili e prende a sprangate il guidatore, c'era anche scene proprio in cui esce il sangue. Sì, è uno dei giochi più è maggior successo. È uno perennemente in fuga, inseguito dalla polizia. Cioè non si è visto un'ombra, non dico di censura, ma di controllo da parte di qualche autorità. Guardi, il controllo, scusi, no, posso dire una cosa, signor, il controllo l'unico doverlo fare è lei, se ha un figlio minorenne. Certo, non certo, ma a me mi è sfuggito, scusi, a me mi è sfuggito, altrimenti, che dopo io gli ho spezzato il disco quando ho visto com'era, no? E l'ho frantumato. Però questo è un brutto gesto. Vicini, l'ha visto, cioè, ha detto ce l'hanno anche altri bambini. Cioè io quello che mi chiedo è questo, a me è sfuggito, va bene, altrimenti non se ne parlava proprio. Però dico, ma è possibile che non c'è nessuno che vaglia un attimo la natura di questi giochi? Ma c'è scritto sopra la copertina del gioco. Ma che cosa c'è scritto? Ma questo deve essere proibito, cioè al massimo, cioè ai 18 anni te lo compri, altrimenti è vietato assolutamente. Ma scusi, no, sia tranquillo, non mica ci stiamo. Innanzitutto l'ha comprato su eBay, quindi la carta di credito penso l'avrà autorizzato lei l'acquisto, quindi è lei che si è reso responsabile dell'acquisto di questo gioco. Ho capito, io ho sbagliato per come dire, per allora leggere, non conoscendo il tipo, la sigla eccetera, ho sbagliato, però quello mi chiedo, al di là di questo, l'errore è stato mio perché, ripeto, non è che devo controllare meglio anche dal titolo, si chiama GT Sant'Andreas, tra l'altro, no. Però quello che dico è che dovrebbe esistere comunque sia una forma di controllo c'è, da parte ma di c'è, guardi, per ma il c'è, commercio di questa roba. Ma c'è, guardi, sui videogiochi c'è scritto il livello di attenzione che occorre in quel gioco. Certi giochi c'è scritto che non sono assolutamente indicati per minorenni, però un adulto ha diritto a giocare con quello che vuole, secondo me. Non è uno strumento. Figuriamoci. Ma non è un giocattolo. Non stupiamoci dopo di chi poi magari ammazza, ripeto, la gente. Con la mente un po' labile prova a applicare certe. Sì, ma guardi, Rose e Olindo non giocavano con videogiochi, hanno massacrato la famiglia sopra perché faceva rumore. Non stabiliamo un semplice rapporto. Ma tutto fa brodo alla fine, no? Vabbè, lei... Cioè io ho questo fetishismo della tecnologia, questa cosa per cui tutto ciò che è... Benissimo, facciamo quello. No, io non lo condivido, cioè ci vuole un minimo di cose. È un suo punto di vista. C'è chi può avere il feticismo della tecnologia, che ha un terrore fottutissimo di tutto ciò che non conosce. Vede, lei ha dimostrato, scusi, ha acquistato a suo figlio, che è un bambino, un oggetto che non era adatto a suo figlio. È lei che ha avuto una mancanza di informazione. Controlli meglio quando compra cose su eBay da suo figlio. È come se avesse comprato una pistola a carica, l'avesse data a suo figlio, poi si stupisce se giocando ha sparato e ha ammazzato qualcuno. È la stessa cosa. È un gioco fatto per adulti, con un immaginario per un pubblico adulto. Il pubblico adulto ha diritto di giocare con quello che vuole, ma se non esistesse il videogioco, lo stesso tipo di ipoteca potrà farla nei confronti di un libro, di un romanzo. La narrativa è piena di violenza, ma non per questo bisogna impedire di scrivere libri. Volevo convocare subito, visto che richiede un apporto tecnico questa discussione, l'ascoltatore ha elaborato e dimostrato un punto di vista ormai molto percepibile. Raul Carbone. Raul Carbone, buongiorno. Buongiorno. Raul Carbone è presidente dei produttori italiani di videogiochi di Assonoleg Confindustria. Quindi esiste un settore in Italia referenziato, patentato e inserito nel mondo del lavoro e della produttività che si occupa di videogiochi. Una veloce risposta più tecnica al nostro ascoltatore, di cui rispetto senz'altro il punto di vista. Ma sicuramente già quello che tu hai già detto è già una risposta più che efficace. Io credo che si possano prendere in esame, non so, dei film che alla stregua di videogiochi non sono adatti a un pubblico per minori, però sono dei capolavori della cinematografia internazionale. Ecco, diciamo come informazione. Quindi, per tutti, quali sono le regole per l'acquisto di un videogioco a minorenne? Cosa deve stare attento a un genitore? Poi, detto questo, certo, ognuno si incarti con le sue mani come vuole. Ma su tutti i prodotti videoludici in commercio, che chiaramente vengono commercializzati in negozi autorizzati, in tutta una serie di catene, eccetera, c'è sopra una cosa che si chiama PEGI, che è il sistema di controllo che garantisce il fatto che un prodotto è stato visionato e gli è stato dato un rating, quindi adatto ai bambini piccolissimi o agli adolescenti, oppure vietato ai minori di 18 anni. Poi ci sono delle iconcine, anche se uno dice non capisco cosa c'è scritto. Certo. Quando vedi disegnato un teschietto, vedi disegnato, capisce che non è proprio il caso, se vuole. Sì, perché oltre, diciamo, il giallo, verde e rosso, che e la scritta più 18, che è chiarissima, ci sono anche appunto delle piccole concine che determinano magari contenuti violenti, sesso, violenza, sesso e quant'altro. Certo, tutto quanto illustrato in modo chiarissimo. Stabiliamo, quindi, un principio, come vale anche per certi cartoni animati, per certi fumetti. Non è un prodotto unicamente per minorenni il videogioco, è un prodotto per adulti, perché gli adulti amano giocare e fa parte delle attività sane, lecite per un adulto quello di giocare. Assolutamente, il videogioco è un medium alla stregua di quello cinematografico, di altri media, che ha le sue declinazioni, quindi ci sono videogiochi per bambini che tra l'altro sono i più venduti, quindi anche a sfatare il mito che i videogiochi sono sempre violenti o quant'altro, e videogiochi per adulti con tematiche differenti e tutto quanto. Cioè, il discorso di prima ricade su un archetipo del cinema che può essere, non so, Arancia Meccanica di Kubrick, è credo a ben dire un bel film. È un film importante, ma certo io non lo farei vedere a un bambino. Luciano, buongiorno. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio però, gentilmente. Sì, non sento bene. Pronto? Parli, parli, noi la sentiamo bene. Parli pure. No, niente. C'è un programma che parlava di questi videogiochi. Io ho un ragazzo che ha iniziato a 14 anni i videogiochi, però si è spostato su un videogioco per me molto positivo, perché si chiama Guitar Hero ed è uno strumento a tasti che riproduce le canzoni. Ora è arrivato a essere campione italiano, è partito oggi per Los Angeles, che ci sono i campionati mondiali dei videogiochi, di questo videogioco. e praticamente oltre a farsi una cultura musicale che è notevole, perché ogni disco ha 100 canzoni di tutti i generi, di tutte le... alla fine del gioco viene fuori un suggerimento molto intelligente, che è quello: sarei stato bravo, comprati una chitarra. Quindi suo figlio oggi è partito per Los Angeles per gareggiare, per portare i colori dell'Italia in una gara mondiale sui videogiochi, di questo specifico videogioco. Raul Carbone, spieghiamo di cosa si tratta esattamente, che tipo di gioco è. Certo, beh, è uno dei più famosi videogiochi di simulazione, diciamo, di musica, dove attraverso un'interfaccia che è simile a chitarra o batteria, sostanzialmente il giocatore simula le attività dei, appunto, dei musicisti, seguendo il ritmo dato da delle immagini che naturalmente sono di compendio alle canzoni degli artisti più famosi. Quindi, diciamo, c'è una gamma molto vasta di possibilità di giocare. Gigantesca, assolutamente. Ivan, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Niente, io chiamo solo per la mia esperienza. Io non sono un amante dei videogiochi, anche perché da bambino ce n'erano pochi, non c'erano tante possibilità. E poi perché comunque mi piaceva leggere. E, ho un figlio che adesso ha 7 anni, più o meno all'età di 4 anni e mezzo. Noi gli abbiamo regalato l'Xbox perché ce l'aveva suo cognatino, che ce l'aveva già 11 anni, e lui praticamente per voler giocare a Dragon Ball, siccome c'era bisogno di saper leggere per giocare, per seguire le istruzioni, lui si è messo di testardaggine così, con libri, con tutto quello che poteva, e ha imparato a leggere praticamente a un'età molto giovane, insomma. Lui infatti ha 5 anni, lui sapeva già leggere, ma lo stimolo gliel'ha dato l'Xbox, il gioco di Dragon Ball, per dire. Quindi stiamo un po' ribilanciando il punto di vista. No, è assurdo, perché io ho sempre letto libri. È assurdo che mio figlio abbia imparato a leggere per giocare all'Xbox, però devo essere sincero, è così. Ovviamente lui non gioca 200 ore al giorno, perché comunque c'ha dei limiti. Però a questo gli ha dato molti stimoli, e secondo me, devo essere sincero, alcuni giochi sono proprio stimolanti per lui, per conoscere, per fare. Ovviamente non tutti. Grazie Ivan, sentiamo Valeria, così concludiamo intanto il primo giro di telefonate. Valeria, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Ecco, vorrei solo, prima che va avanti Valeria, istigare anche gli adulti a parlare un po' della loro esperienza con i videogiochi. Finora stiamo sentendo soltanto genitori spaventati o genitori integrati che parlano del videogioco relegandolo ancora come un'attività ludica unicamente dedicata ai minorenni. In realtà non è così. Prego Valeria. Bene, sono stata anche io in passato un genitore spaventato, una mamma spaventata, perché più di 20 anni fa il mio piccolo non faceva altro che stare al computer e giocare a videogiochi. Ho tentato in tutti i modi di staccarlo. Beh, 20 anni fa era un bel primato, perché non è che ce ne fossero tanti. Sì. Però il papà gli ha messo in mano una console di videogiochi, o meglio, allora c'erano i computerini che si agganciavano al televisore, se ricordo. Certo, sì. Si giocava a tennis e poco più. Insomma, ha cominciato a giocare prestissimo, ecco, è stato il papà l'istigatore. E per un po' quindi ci siamo preoccupati, perché questo figlio, secondo noi, esagerava. E così abbiamo tentato più volte di spegnergli il computer, di cercare di metterlo nel cosiddetto mondo normale il più presto possibile. Beh, normale, su questo avrei molto normale, da dire. Normale, tra virgolette, sempre, molto tra quindi, virgolette. Quindi, conclusione? E quindi il tempo è passato, lui ha girato l'ostacolo, perché è diventato programmatore di videogiochi, e ha preso una laurea in informatica, poi ha fatto una scuola di specializzazione, e adesso è un felice programmatore di videogiochi. Raul Carbone, proprio all'estero. Sì. Adesso, lei è fortunata. Raul Carbone, proprio in 30 secondi dobbiamo dare la linea. È tipico di quella generazione che a 20 anni giocava con le prime console, con i Commodore 64, con i Nintendo, che poi sono entrate la generazione dei programmatori che oggi hanno un 45-50 anni. Beh, sicuramente sì, cioè c'è una grande fetta di pionieri che già appunto 20 anni fa con i primi prodotti ha poi costruito un immaginario che ha portato avanti a livello professionale. Sicuramente il videogioco ha un panorama di operatori molto giovani, però naturalmente risale ormai agli anni 70 come prodotti commerciali. 800240024, continuiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Mi raccomando, chiamate anche voi adulti videogiocatori, non vi vergognate, non è una colpa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Gli dissi saresti venuto per me. Beatrice. La mia vita, l'anima per il suo ritorno. L'abisso ti aspetta. Dante's Inferno, il videogioco. Stiamo parlando di videogiochi e questo è un videogioco che mi ha dato piacevoli pomeriggi e piacevoli serate assieme ai miei figli. Tartassato soprattutto il maggiore dalla Divina Commedia come disciplina scolastica, ha riacquisito piacevolezza nel vederla rappresentata tridimensionalmente, anche se con delle derive fantasiose, senz'altro, ma vedere Minosse, vedere Diavolacci, vedere tutti i personaggi dell'inferno dantesco rappresentati in un videogame, soprattutto poterli prendere e colpire con una grossa falce da parte di un soldato crociato che andava come Orfeo a recuperare la sua bella negli inferi, beh, è stato divertente, interessante, una contaminazione senz'altro riprovevole per i puristi della critica dantesca, ma che è servita a far appassionare mio figlio comunque alla Divina Commedia. 800240024, stiamo parlando di videogiochi, ci siamo riservati la prima parte per riassumere il solito ed eterno dibattito: fanno bene, fanno male, sono strumenti pericolosi, sono strumenti didattici. Io vorrei, se possibile, in questa seconda parte fare un passo avanti e sdoganare, ammesso che sia ancora necessario farlo, comunque almeno in questa trasmissione, il fatto che esista un numero impressionante di adulti appassionati comunque al racconto, all'avventura, all'attività ludica attraverso una console, attraverso uno strumento che permetta di videogiocare, anche mondi a volte condivisi, perché ci sono i multiplayer, i giochi che si fanno la sera collegati in rete con altri giocatori, ma a volte anche con centinaia, migliaia di altre persone da tutte le parti del mondo. Per aiutarmi in studio Raul Carbone, che ricordo presidente dei produttori italiani di videogiochi di Assonolig e Confindustria. Raul Carbone, veniamo di parlare un pochino del punto e dell'attualità. Come la tecnologia si è evoluta negli ultimi anni? Abbiamo parlato romanticamente delle prime console, dei primi videogiochi, di quelli che erano bambini 20 anni fa, che oggi sono rinomati programmatori informatici. Ma oggi chi usa videogiochi e cosa usa per videogiocare? Beh, innanzitutto bisogna dire che il videogioco oggigiorno ha superato come fatturato il cinema, la musica, l'home video, con oltre 60 miliardi di dollari, quindi ecco, questo è un dato interessante che tutti fanno finta di non conoscere. È proprio così, infatti, dicevo, ha superato quindi gli altri media ed è al vertice quindi dell'industria dell'intrattenimento, quindi nel mondo prima si parla di videogiochi e poi si parla di cinema, musica e un video. E tu consigli, ci sono una serie di film che cominciano a nascere come derivati di un videogioco? Indubbiamente, certo, e sempre più spesso, sempre più di grande qualità. Io penso che la prima evoluzione importante da dire del videogioco è che ormai il videogioco come opera multimediale interattiva non è più soltanto un software, non è più soltanto programmazione, non è un oggetto ludico, un passatempo ciclico di azioni ripetute, ma è un medium artistico e culturale a tutti gli effetti, con il quale sempre più spesso registi e pensatori riescono a comunicare e a raccontare delle storie, delle belle storie, come succede ormai da tempo nel cinema. Io ricordo un gioco meraviglioso, Undying di Clive Barker. Ci ho allevato anche lì per 2 anni un figlio, una storia meravigliosa di una ambientata nel periodo tra le due guerre, in cui c'era un reduce della prima guerra mondiale che andava, era chiamato da un suo ex commilitone, una storia con dei fratelli, una maledizione, ma si entrava in tanti ambienti paralleli, ogni fratello aveva una sua dimensione, ognuno era connotato da storie, da riferimenti, era fantastico. Su quel gioco mi ricordo che insegnai tante cose a mio figlio. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche al suo ospite. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì, cosa vuole sapere di preciso? Beh, innanzitutto lei è un docente alla facoltà di scienze tecniche della comunicazione. Comunicazione applicata, sì, ma credo che sia una. Non credo di essere il solo adulto, no? A giocare soprattutto di giochi su giochi di strategia, che credo che abbiano una risonanza mondiale, tant'è vero che tante volte i miei figli si alzano alle 4 magari di mattina e mi dicono: papà, ma cosa fai sul computer? Perché magari dall'altra parte sono le 11 di sera, per cui è normale che se tu inizi una battaglia è difficile poterla lasciare a metà, visto che in questo hai... momento a cosa si sta applicando? A quale battaglia? No, The Age of Empire 3, che credo che il presidente conosca benissimo questo gioco, oltretutto di un'azienda che purtroppo non credo che non ci sia più. Però sono delle battaglie di strategia, delle guerre dove sono battaglie ottocentesche, cui bisogna mettere soldati, cannoni e truppe in movimento. Castelli, postazioni, prendere dei siti per creare delle alleanze, insomma è veramente molto interessante. Oltretutto questo gioco rappresenta un po' un'unione anche tra le razze, no? Tra varie etnie. Diciamo questo, etnie che suona meglio. Sì, oltre che comunque. So che è un eufemismo, però che sinteticamente vuol dire la stessa cosa, ma il termine razza ormai è talmente connotato di significati negativi per l'uso perverso che ne è stato fatto. Per essere è la stessa cosa, ma etnia è un po' meglio. Ok, un pochino meglio. Sì, non sono politicamente corretto, ma lo dico così perché fa sempre bene ricordarsi. Ma anche a me nello slang mi viene da dire razza, però sì. Etnia è più... È meglio. Ok, per cui è veramente un qualcosa di entusiasmante. È chiaro che voglio dire, non bisogna dedicare troppo del proprio tempo, no, a un videogioco, a meno che non sia educativo. Perché ma come entra, diciamo, in una disciplina universitaria il videogioco? Questo magari ci piacerebbe capirlo, no, un po' meglio. Assolutamente in maniera molto prepotente, nel senso che comunque la cosa più importante è cercare di far capire ai ragazzi che il videogioco deve essere una passione, deve essere un passatempo e non deve essere una motivazione di vita. Ecco, questo credo che sia un messaggio molto importante, anche se naturalmente è retorico, però è la verità. Questo vale anche per chi gioca a calcetto, diciamo la verità. Assolutamente vale sì, ma è chiaro che come quelli che giocano a calcetto una volta alla settimana, perché si sentono meglio e va benissimo, ma che tu vai tutte le sere a giocare e perdi di vista altri valori, chiaro che è normale che non... Grazie Roberto, sentiamo un attimo Marco. Marco, ha un'esperienza anche lei diretta con il mercato del videogioco. Buongiorno, sì, io ho un negozio di videogiochi e quindi posso, allora, al di là dell'attività attuale, io sono dentro nel mondo dei videogiochi, ma proprio come passione personale, dall'età di 4 anni. Ecco, mi parla del suo cliente medio. Allora, io li distingo bene o male in, facciamo, tre fasce, anzi, forse quattro. Comunque c'è il bambino, il bambino più o meno delle elementari, che fondamentalmente vuole il gioco che ha già l'amichetto, piuttosto che quello pubblicizzato, ultimamente c'è Alorice, che è molto pubblicizzato, quindi vuole quel gioco e spesso e volentieri entra con la mamma o il come papà, fosse un giocattolo, è un giocattolo come te. È un giocattolo, esattamente. Poi dopo abbiamo l'adolescente adulto, via, che è veramente appassionato ed è una gran fetta comunque del mercato, a mio avviso, che appunto cerca il gioco del quale ha già letto tantissime preview su internet, vorrà il giorno è quello specializzato uno. Com'è? È quello più specializzato. L'ultima categoria? L'ultima categoria è il mi perdoni, io lo chiamo il casual tamarro, nel senso che praticamente è quello che puntualmente ogni anno, perché molti giochi sono ciclici, tipo vabbè al di là del Pro Evolution Soccer piuttosto che FIFA, ma quello che prende i prodotti proprio annuali, quali sono Need for Speed, che dire, Prince of Persia, cioè i prodotti che mio avviso non beh. Di grandissimo spessore, ma di un certo trend, ecco, di certo, che comunque vanno frequentati anche per i più raffinati, non si può fare a meno di seguirli, capito? Perché quando uno è precedente e voglia avere i successivi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Mi sembra che da questa incursione che ormai facciamo annuale nel mondo dei videogiochi stia emergendo un dato concreto. È sempre meno attuale, meno plausibile, meno storicamente accettabile considerare il videogioco come un'attività minore, un'attività minoritaria, come qualcosa che appartiene al mondo del voluttuario, del superfluo. Non voglio entrare nelle logiche d'amogene, nel riprovevole, nel demoniaco, nel diseducativo, questo mi sembra abbastanza superato. Raul Carbone, che sta in studio con me, presidente dei produttori italiani di videogiochi di Assonolleg e Confindustria. Possiamo dare qualche numero, solo per far capire quello di cui stiamo parlando? Abbiamo sentito professori universitari, altri ne sentiremo, abbiamo sentito qualche cifra che ha dato te sulla ormai la massa critica del mondo del videoludico che supera quella del cinema, quello di altre cose che noi pensiamo centrali. Quanta gente si impegna, ma nel nostro paese, in Italia, nel mondo del videogioco, nella costruzione, progettazione, vendita, e a che punto siamo rispetto a altre esperienze nell'ideazione e nell'immaginario del videogioco? Ma in Italia i numeri più significativi sono questi. Innanzitutto il mercato videoludico è a oltre 1 miliardo di euro di fatturato nello scorso anno, quindi un'economia molto florida, molto grande, quindi in Italia si comprano molti videogiochi. Quanto però di questo fatturato è prodotto da aziende italiane? Beh, molto poco, solo il 3%, solo il 3%. Questo è da individuarsi, e io dico ormai con una certa certezza, nella scarsa cultura nel nostro paese dell'importanza del videogioco come medium artistico e culturale e soprattutto come prodotto industriale d'eccellenza. Cioè, c'è anche una grossa reticenza strutturale. Diciamo che il buon pensiero corrente ancora lo classifica come quelle attività negative, come il toccarsi, usare un videogioco, viene ancora usato come qualcosa che fa tanto male alla vista, ecco. Ma purtroppo questa è assolutamente una verità. Io quando ho cominciato a parlare con in ambito istituzionale, ormai tanto tempo fa, prima ancora della fondazione del gruppo di filiera di Confindustria, il videogioco era confuso con il gioco d'azzardo digitale, che sono mondi completamente diversi, con ecosistemi e dinamiche totalmente diverse. Io, per quanto riguarda poi la produzione del nostro paese, indubbiamente noi abbiamo bisogno di far riconoscere il videogioco, farlo scoprire alle istituzioni, all'opinione pubblica e quindi poter avere gli strumenti e, dico, i fondi, i finanziamenti per poter competere su scala internazionale ormai con produzioni da 150 milioni di dollari. Ospite al telefono Marco Accordi Ricards, che è docente di teoria critica delle opere multimediali interattive all'Università di Tor Vergata a Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. No, mi piace chiamarla professore, poi possiamo anche darci del tu, perché sì, mi piace la sfida di chiamare che ci esistono professori in videogioco. Ho sentito sulla pelle per tanto tempo questa sorta di pregiudizio fortissimo. Senti, ci vuoi spiegare in sintesi qual è il punto della creatività italiana, non perché sia legato a orgoglio di bandiera, ma visto che poi i motori di videogiochi ormai sono motori che si prendono e si popolano della nostra fantasia rispetto ai modelli internazionali, possiamo farcela in questo settore? Ma possiamo farcela sicuramente, anche perché l'Italia è sempre stata sinonimo di creatività, cioè il Made in Italy è forte in tutti i settori, può esserlo anche nei videogiochi, però come diceva Raul Carbone, bisogna far sì che si sviluppi proprio l'infrastruttura di base, che ci siano gli investimenti pubblici ma soprattutto privati, perché le aziende possano competere. Ecco, io ho in mano il tuo libro scritto assieme a Paola Frignani, Le professioni del videogioco, una guida all'inserimento nel settore videoludico, edizioni Tunue. Esiste quindi proprio una corsia professionale per chi lavora nei videogiochi? Questa è una cosa abbastanza singolare, non è molto sentita. Se ne parla sempre come un prodotto, si immagina uscire da dei laboratori di scienziati perversi, non si immagina che esista una normale catena produttiva anche nel campo videoludico. Beh, in realtà esiste, ne esistono tante. Esistono tutte le professioni più tecniche di chi videogiochi li fa, quindi i disegnatori, i modellatori, i grafici 3D, i game designer, cioè quelli che inventano le regole, i meccanismi che fanno funzionare il gioco, o i programmatori. Il vantaggio di queste discipline tecniche è che una volta che ci si forma e si è forti, si è sul mercato mondiale. Cioè lo sviluppatore di videogiochi, come si chiama, il game developer, che ha un buon curriculum e che è bravo, può tranquillamente andare a lavorare e spostarsi in tutto il mondo, dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti all'Europa. Quindi c'è grande mobilità e ci sono anche degli stipendi molto alti muovendosi bene ed essendo bravi. E poi ci sono anche delle professioni che sono invece un pochino più, insomma, con un po' più di difficoltà, che possono essere dalla mia, che io inizialmente sono stato tanti anni e sono tuttora un giornalista che si occupa di videogiochi, o chi fa comunicazione nel campo di videogiochi. Allora lì chiaramente un po' le barriere linguistiche ci costringono un po' a stare in Italia. Comunque vero che in Italia c'è anche una pubblicistica, riviste specializzate, organi di informazione molto diffusa, è un settore molto grosso. Uno entra in un negozio specializzato, si rende conto che l'indotto è spaventoso rispetto alla percezione generale rispetto a questa attività. Raul Carbone, proprio una battuta per concludere, tu ti muovi anche a livello istituzionale. Oggi ho fatto una deriva che di solito faccio poco, sono iniziato a parlare in maniera divertente, abbiamo finito a parlare in maniera seria, siamo proprio una vera trasmissione di Radio 24. Ecco, ma c'è attenzione, qualcuno si muove o ancora siete una branca staccata dall'attenzione generale? Ma noi assolutamente siamo in posizione centrale in questo momento, siamo dentro Assonowledge, dentro Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, la parte forte di Confindustria, stiamo lavorando col Ministro della Gioventù su progetti molto importanti, stiamo lavorando con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo tante sorprese che tra il 2010 e il 2011 pubblicheremo, quindi è una ce ne anticipi una per capire? Dunque, per esempio, noi stiamo realizzando il gioco dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Va bene, siamo in attesa, speriamo che sia all'altezza delle nostre aspettative di vecchi appassionati giocatori. Grazie a Raul Carbone, grazie a Marco Accordi Ricards, grazie a tutti quelli che ci hanno telefonato a favore o contro i videogiochi, pensatela come volete, ma è un grosso settore nel lavoro e nella professione, nell'indotto economico soprattutto, quindi avete voglia a strillare, di videogiochi se ne sentirà parlare ancora per tanto tempo. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Tutti i giorni bevo Uliveto, la mia acqua della salute. Vi ha presentato Melog 2.0. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.